上来怎么会滑？ 马上来 怎么 会滑？啊， Nico Nico Nico， 你有吃的饭？ 哎，上来。 Hai mangiato? Sì, sì, sì, sì. Hai fuori di adesso qua, bisogna parlare italiano. Sei venuto, John. Ah, no, capisci, capisci, dai. E forestiera? Le come Jägermeister. Come sei? Come sei? Dai che ti appoggiamo subito con la canzoncina. Lui. Cazzo, beh, allora le capisci il dialetto veronese, se è Trevisan? Cazzo, le capisci tre volte? E anche a bere volentieri come i veronesi, Nicola. Beve, ho del gusto. E beve volentieri come i veronesi. Ha già mangiato, ha già mangiato. Non lo sappiamo. Ma scusa, spiegami perché non vi fanno guidare in tutta la ginnastica. Perché dopo i passeggeri ti vedono, almeno si fidano un pochettino. Ah, si è vestito così, però è il par serio. E c'ha paura. Con le lucette, i passeggeri sono scesi. Le no. Anche no. No, ha fatto fare il servizio alle ostriche. Con le capellini che sono bravi. Vediamo il brutto e il bello. Finché il beve, dai che dai, grazie. Adesso la canzoncina, perché tutta la storia... Esatto, no, perché la spiega Calù. Sì, allora senti la storia del razzismo. Sì, ma allora, fa, fa un sunto, però. Aspetta. Ah. Un sunto. Dai un bicchiere. Un riassunto. Ma che era bicchiere? Fede? Belli questi bicchieri. Bicchieri politici. Abbiamo appena dato. Ah, perché il Fede, ma siamo su. Ma che dopo? No, ma la registrazione. Sì, sì, grazie, Fede. Allora, va su, va su. Non l'ha visto, mi ha battuto uno di questi. La mette sulla tomba la registrazione, la mette sulla tomba, quando c'è uno manca la cosa e siete in casa. Grazie, grazie, grazie, grazie. Non hai sentito la ringa? Non c'è, cioè, adesso anche nel cominciamo era ma sento con la foto, foto e cose, manca il bottone, vedi la registrazione. Allora sta canzone, no, la storia, quella canzoncina. Beh, Paolo, Paolo Andeletto, sei se Trevisan? Sì, sì, sì. Sì, sì, ne capiamo alla grande. No, penso che sì. Sì, sì. Capiamo, sì, sì, dai, dai. Allora, è un problema grosso. Però... Dico, fa riassunto sto giro, dai. No, è un assunto, insomma, vediamo che la spiega, perché sennò... allora... Così, i piloti, un neurone. Sì. Uno, 100 parole. 100 recettori della parola, linguaggio semplice, sì, sì. Ok. Sito Statia porteria becca lì dalla Tunisia. Sì, sì, l'ho passato. Non le cantava più, lei a Cagliari, no, lei a Malta, no. Mi pareva di averlo visto lì a Pozzo Moretto. Quelle di Tunisi, quelle di Tunisi che scappa. Le a Cagliari, ma forse era un signore che era lì, ma le conosci di via. Forte, fortissimo. Dopo Fede. Vabbè, allora Fem dico le radici è una canzoncina che naturalmente stronza che io faccio ogni tanto, purtroppo a volte invece di fare bacà seriamente faccio non seriamente bacà e non seriamente anche il cantore, non faccio niente di serio, a volte con mia suocera faccio lo serio, quella è un'altra roba. È una canzoncina che noi abbiamo fatto perché aspetta, com'è? In che anno era nata? È nata 10 anni fa. Anche con me, poca soddisfazione. Comunque si chiama i radici ovviamente, i radici, perché una volta con mio amico era in un mercato tipo quello di Villafranca, il cato Lu, e andiamo a prendere la figlia alla scuola materna, non all'esilio, e io con lui andiamo là, e la suora superiore che ci viene incontro mi fa... a me vedi il sacchetto dei radici che vai a comprare durante e fa la me fa la suora, perché i preti, le suore secondo me li da sempre come Bertone, vero? Gli occhi di là, eh? E la me vedi i radici nel sacchetto e la me fa non doveva disturbarsi, la me fa la suora. Ma a me proprio come serene sotto le feste, cioè non anti serene qua, le feste era sotto o viceversa. E mi è toccato a dargli i radici e lì abbiamo fatto la canzoncina. E le un venerdì d'inverno e fa male allo sterno. E decisi come feci di comprarmi due radici. Ed insieme ad Alfonso, e che penso quando posso, mi avvicino al banchetto, sono timido discreto. E il medaglia per piacere, otto gambe col sedere, chiedo 1500, pago tutto e non mi pento. E andemo tutti quanti nell'asilo di ogni santi, a tor sulla buteletta, dalla faccia tutta netta. Si presenta la Michela, santa donna purela, e sorpresa degli arrivi la ne accoglie come vivi. Te porta per queste feste, non il pan e il vin le seste, ma un sacchetto molo molo dei radici presi al volo. C'è un ritornello che fa così, che potete impararlo in maniera proprio squisita. Due radici alla sorella che le santa cara bella, due radici a Don Remigio che le come topo cigno, due radici alle maestre che le magna nelle feste, due radici ai genitori chi se goda anche loro. Ripetiamo per tutti, due radici alla sorella che le santa cara bella, due radici a Don Remigio che le come topo cigno, due radici alle maestre che le magna nelle feste, due radici ai genitori chi se goda anche loro. Però il pensiero, sono lindo, sono sincero, che quel cibo delizioso che le degno dello sposo, è il polessa del sostegno, e mi do del son degno, de un convinto di valore, con il Papa, preti, Don Bertone, suore. Tutti insieme, everybody, tutti col body. Dura dice alla sorella, che le santa caramella, dura dice a Don Remigio che lei come topo grigio, dura dice alle maestre che le mangia nelle feste, dura dice ai genitori chi si goda a calori. E un proseguo che fa, l'altissimo del sole te manda la tempesta, l'altissimo del sotto te magna quel che resta. E mezzo stido altissimi, e mezzo stido altissimi, e mezzo stido altissimi, a proposito del tuo pezzo. Esatto. Restiamo poverissimi. L'altissimo di sopra che manda sottoterra, l'altissimo di sotto che manda a far la guerra, e mezzo stido altissimi, e mezzo stido altissimi. Dura dice alla sorella che è santa cara.